male comprato, comprato in questa via. E pane benedetto, il pane comprato e poi portato via. È buono anche se secco, e non c'è proprio alcun motivo di pensare che qui la terra sia più morbida. Si sta sul duro con la mente e con il cuore, in cerca di vecchie sensazioni nuove. Lettere conservano i ricordi del presente, ti fanno amar di più la gente. Le lettere si scrivono, è come scrivere un romanzo, chi importa se le imposti e non arrivano. E non temere che sia tutto tempo perso, le strade sono tante, ma la buona strada è una sola, il foglio dove vivere in silenzio la tua storia. E cammina, cammina, cammina cantando, e cammina, cammina, cammina sognando, e cammina, cammina, cammina volando, e cammina sognando. Sali se nevica, gettato per la via, non ti fa più scivolare, ma il sale è rimasto se la neve è andata via, dà il sapore dell'inganno, ma non pensare che questo sia l'ultimo regalo. Sulla tua strada ti potrai fermare a riposare, ma non smettere mai di andare. Cammina, cammina, cammina.